Marino. Babbo, lo conosci. Ciao. Ciao Luca. Se lo conosci tu no, ma che io, boh, ma hai inteso. Affaro. Bella giornata di sole. Cosa sei? Non ho capito. Che era bella giornata di sole. Bella è, sai, ma bella bella però me, ma un bel. Aspetta, io sto giù che devo stamparmi delle cose, no? Stampa. C'è di vittura oggi. Ma che? Hai già vinto tu? Allora, toccarci, a ubbidire. La vittoria della Juventus. Allora, è quello che mi ha fatto vincere. Ma cari dai, la bella squadra dei muschi. Ma non imbagliati. Poi adesso gli hanno tolto anche 3 punti, quindi a 9 punti dal Milan e a 6 punti dall'Inter. Addio campionato, giocando in uscita. Infatti ormai è tutto messo. Vabbè, la partita la deve recuperare, se la vince non sono più 9 punti. Comunque, quest'anno è proprio zero, messa male. Una squadra messa male, veramente, non si capisce niente di questa squadra. Un giorno gioca benissimo e l'altro giorno dopo che senza base schifo. E fare voce nel peggio. Io sono influenzato, c'è un mal di gola. Ma che senta, un mal di gola di giunto. E te ne sei ricordato proprio di Natale a prenderti il mal di gola. Mamma mia, non è possibile. Vabbè, dai. Ce la passa, già è una cosa passeggera quella, a domani non hai niente. Sì, ci si è messo anche l'arbitro, molto ci si è messo l'arbitro contro, ma carità, infatti anche il giornale ne parla oggi, non è possibile, 2 rigori netti c'erano, non ne ha dato nemmeno uno. Un'espulsione, il Boccapalero, anche quello da espellere al 50esimo, invece a Quadrado l'ha subito espulso, diretto al rosso, vabbè comunque, e cosa vuoi fare? E come ti andrà la bacca, una bacciccia? Non sono già un paio di giorni così, poi la notte l'altro giorno mi ha trattato. Con chi stavi parlando? Con Luca, ma sta lavorando e dunque ha dovuto assentarsi perché sta lavorando in questo momento. E così è, fai la moto in questo periodo è un momento maledetto. Quando uno esce in moto si deve coprire benissimo, non bene, non benissimo. E se invece la lasci da parte è ancora meglio, perché finché uno è ragazzino può anche sopportare, ma arrivato alla certa età la moto, basta un piccolo colpo d'aria e si è buttito. No, io sono uscito apposta, sono andato a ritirare la gommista, l'avevo portata a mio genere, mi sono andato a ritirare, mi sono fatto un giro, un po' di commissioni. E mi ha fottuto. E vabbè. E Luca è sempre da valiente. Se non fa lui si annoia. Già lo credo. Se lui ha gli impegni è giusto che faccia. Già lo credo. Tu ti sei fidato di quel tempo bello, tra virgolette, che ha fatto in questi giorni passati e ti ha pregato. Ebbene, non ti stai prendendo niente? Sì, io non ti ho chiamato, lo sto prendendo. Piano piano già sto migliorando. Ieri non c'avevo voce per niente. Piano piano sto sfruttando la mia borucilina anche in gola. Però non è che sono in grande forma. E Natale, allora fai Natale. Mia figlia, adesso io ci volevano ritirare tutto, mettere i tavolini dentro, le sedie e tutto, i gianni tutto, e se ne riparla al 7, siamo andati a 10, quindi siamo andati dopo, bellissimo Natale. Non è solo Natale, no, qua, è tutto l'anno, è pessimo, è stato un anno pessimo questo, veramente. Non è possibile, peggio di così, e a quanto sembra dobbiamo ancora sopportare per un bel po', visto e considerato com'è la situazione. Per adesso la paura mia è che rientri da tutti quelli che sono andati a farsi le vacanze nelle seconde case, eccetera, chissà quanti contagi hanno portato qua, mamma mia, e cosa vuoi fare? Purtroppo la vita è anche questa. Abbiamo le spalle larghe, accettiamo tutto, però sì, se la metà di re è tranquilla sarà ancora meglio, pazienza, dai. Sopportiamo e speriamo bene, tutto lì. Sopportiamo, vediamo un po', se va meglio. Io figurati, ho 16 colleghi col coronavirus, 4 squadre. L'azienda se ero disponibile a rientrare, no. In questo momento manco di bimba da una prigione. Vuole vedere, e che te lo fa fare? Vai! E dillo che se la fessura già niente la bassona. Ti abbassa tutti gli anni di lavoro che hai fatto, che te lo vado a fare. E a volte tu mi dirai, ma mi avrebbero dato un buono stipendio, tutto quello che vuoi, ma i soldi davanti alla salute non contano niente. Lascia perdere a putidini, anche se sei stato bene, in piena forma, se non ci fosse stato il Covid-19, non ci sarei andato lo stesso. Una volta che hai staccato, basta, non per niente, anche perché poi ci sono anche le madrelingue, mi torna, dove mi si vede non riesci ad andare davanti, lo sai come se sarete, la gente poi anche maledetta, senza sapere quali sono le condizioni e la situazione degli altri e i problemi soprattutto degli altri. Già lo sai come ci siamo fatti a Sassari, noi. No, ma me la potete già sai, io non sono a Sassari. Ma ricordati che in questa situazione, se ogni lavoro ti richiama, ti sei obbligato ad andare, perché sono un dipendente regionale, quindi. Perciò non ci sono misure. E che io ho detto che non sto bene e che non ce la faccio in questo momento. Facci pure che una mano gliela via se continua così, capito? Quindi non sono un operaio normale, c'è necessità di me per fare cose specifiche, ce ne sono 16 a casa, quindi la situazione è molto critica, stanno facendo turni massacranti, perciò. Però in questo momento non me la sento, perché non sono in forma, e poi c'è mia moglie anche a casa che ancora c'è il piede così, oggi è andata a visita, gliel'hanno rimeritato, non gli hanno tolto né punti né il chiodo, quindi devo stare a casa. Però non è che io con l'azienda ho un bellissimo rapporto, se hanno bisogno volentieri ci vado, se non affrutta mai, ho mai lingue, se ho mai lingue ho bisogno, io non lavoro a Sassari, quando ero a Olbia, figurati, che problema c'è, e poi a me, dice di altri, sinceramente parlando, non mi affrutti nulla, ce la faccio tranquillamente con quello che ho e con quello che prendo, quindi non è che mi servono subito, solo che se vogliono, se hanno bisogno, si è obbligato ad andare. C'è bisogno, capito? Quindi vediamo, adesso vediamo, facciamo passare Natale, poi vediamo cosa decido. Vabbè, adesso intanto riprenditi adesso da questo mal di gola e poi decidi, chiaramente sei tu che devi decidere, non certo gli altri, questo è ovvio. Però il fatto che uno è obbligato ad andarci non sono d'accordo nemmeno io, perché se uno è in pensione io non ci vengo più, allora io se sono dipendente non mi posso nemmeno licenziare, solo perché ho fatto sono stato dipendente regionale, no? Io dico che uno si può rifiutare tranquillamente, poi non lo so come sono le regole e i contratti che avevate, questo non lo so, dunque sto parlando per quello che posso sapere io, poi se ci sono altri motivi allora sto zitto e non se ne parla più. Comunque è un leggerissimo fischietto dovuto a un innesco, dai, leggerissimo, leggerissimo. Forse c'è qualche altra radio accesa lì che sta fischiando, o le cuffie, non lo so, vedi un po' tu. Vabbè, dai. Ah, fuggi di Nicola, domani è Natale, domani è festa battuti e anche per, tutti guariti domani. Un fischietto. Ecco. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Di accese anche. No, Giulio, io non sono uno qualsiasi, io ho fatto un accordo per andare via, quindi nell'accordo c'è scritto. Io sono andato via 2 anni prima, mica potevo andare. Sono andato via 2 anni prima, capito? Con un accordo tra me e loro, praticamente con un inserimento, insomma, particolare. C'è necessità, ci vado, non è quello il problema. Sono obbligato ad andare, capito? Perché c'è scritto così. Va bene, comunque. E allora dici, so quelli che sono in pensione, medici e paramedici, non so travaglienti. Ne hanno chiamato poco, ne hanno chiamato 700. Figurati. Di lavoro come sono andato in pensione. Come che a 15 anni anche loro. Comunque, io ci vado volentieri, se sono in forma dopo Natale ci vado, non è un problema, per 2 o 3 mesi quello che è, insomma, 4 mesi, 5 mesi quello che è, capito, ma vogliamo, e soprattutto per inserimento mia moglie, perché anche con un mordiola io sono sempre andato a lavorare, però così non mi posso muovere, perché mia figlia sta sempre lavorando. È a casa, ma c'erano le cose sue da fare, a casa sua, quindi devo stare un po' vicino a mia moglie. Va bene, va bene. E tu come ti sei organizzato? Tu, tua moglie e tua figlia? Beh, certo, è mio genito anche, no? Cosa puoi fare? Non è che puoi fare diversamente, non puoi fare diversamente. D'altronde, purtroppo quest'anno è così, non possiamo fare diversamente, niente fratelli, niente sorelle, niente di niente, perché non ce lo permettono, non ce lo consentono, per cui pazienza, dai, è interessante che finisca questa situazione, perché ormai è diventata insopportabile veramente, ma non per noi, ma per chiunque, ormai tutta la nazione, tutto il mondo è stufo di questa pandemia, pacca del dai, adesso si è aggiunta anche questa variabile inglese, speriamo che non sia una complicazione ulteriore che si aggiunga a questa pandemia che abbiamo. Speriamo di no, loro dicono che è risolvibile sempre col vaccino, ma io ancora di questo vaccino non ne ho fiducia, perché non vedo i risultati, va bene che ancora non è passato molto tempo, però staremo a vedere cosa succede, cosa voi ti dica. Io cerco di rimanere riguardato, uscire il meno possibile, tanto io dai ragione, anche perché intanto dove vai? Non puoi andare da nessuna parte, dove metti piede c'è il rischio, per cui esci solo esclusivamente proprio in caso di strettissima necessità, se no tanto vale rimanere a casa. E così facciamo, vai. Agli arresti domiciliari praticamente, obbligatori. vabbè, dai, pazienza. Hai detto tuo genero, perché tuo genero convivente vive lì? No, non ho capito. Hai detto tua moglie, tua figlia è tuo genero, perché tuo genero, cos'è convivente, abita lì con te? No, non abita lì, ma c'è un posto qua, rimane qua, cosa vuoi che ti dica? C'è un posto per dormire, per cui è tranquillo, lo stesso, anche se in separato reparto, cioè in separata zona, Plasencia, però cioè abbiamo un divanoletto tranquillo, molto comodo, per cui può stare qua. Può stare qua, non c'è problema, viste considerato quando si può rientrare, dopo quell'ora non puoi rientrare a casa tua, e allora viene prima e rimane qua. Che cosa vuoi fare qua? Non si può fare diversamente. Ma qua sono 24 notte e poi 25 può andare via, cioè non so come funziona, perché il mio genere non ci viene. Dice che non può rientrare a casa, non ho capito accidenti di questa cosa. Infatti è così, per tre giorni non si può rientrare, ma il problema è anche di avere il posto dove ospitare le persone, se no dove, come fai? Il discorso è sempre quello, se uno non ha lo spazio, è il posto dove poterlo collocare per la notte, è chiaro che allora è costretto a rinunciarci, cosa vuoi fare? Ma noi già ne abbiamo posto, per cui lo buonimo in tavernetta, se c'è un divano tranquillamente, che poi si trasforma in letto, si trasforma e può stare qua tranquillamente. E noi su, nella zona notte. E cosa vuoi fare qua? Il discorso è questo mio, o mangi questa minestra o salti la festa. No, io anche io ce l'ho posto, non c'è fa bene, figurati. Avevo pure, non problemi. Però stai tre giorni qua, lo tuo bar. Deve essere che in Tunichino è un'antenna. Luca, per tu alla Gufini si riprende che sta antenna. E non riprende, si vede che è nell'altra zona della casa, dove lavora. Sicuramente è così. Perché non credo che sia il fresco nel terrazzo di Abolando. Perché lui si è formato anche un laboratorio lì nel terrazzo, no? Per quanto ne so io. Ma lì, vabbè, io devo sempre accalorando, già è giovane, per cui già sopporta. Luca, ci sì, no, non riprende, no. Deve essere che è lì il saldatore fumante o qua, per cui lasciamolo continuare. Cosa vuoi fare? Sì, anche perché quando esci ci vuole l'autocertificazione, e si sa, se lui problemi per uscire non ne avrebbe, essendo in farmacista, sto andando a lavorare, sono di turno in farmacia, oppure che so io, sto andando a consegnare dei medicinali a un paziente che ne ha necessità, si può vedere la testa del farmacista, voglio vedere cosa dice buon Dio qua. Già che c'è il canile, quindi per il cane ci può uscire, ma non è quello il problema, non ci sta qua tre giorni, capito? Non è quello il problema, è che tutto l'insieme delle cose, cioè passare a Natale in queste condizioni, due persone, tre persone, l'avevamo organizzato quest'anno, che sai, facci pure che il prossimo anno mia madre non ci sia più, quindi avevamo deciso di passare tutti in famiglia, con mia madre, c'ha già 86 anni, quindi, però, dove vai? E dove vuoi andare? Ma, lascia perdere, non si può, basta. No, non si può, ragazzi, tra noi, siamo una famiglia numerosa di fratelli, sette persone, sette fratelli, più tutti i nipoti, tutti i mariti, eccetera. Ti puoi immaginare, saremmo stati 25, 27, 28, non lo so di preciso, forse anche 30. Ma se non si può, non si può. Ognuno se ne rimane a casa sua e si fa il Natale così, vuol dire sopporteremo e ci rifaremo il prossimo anno, se Dio vuole. Se no non puoi fare diversamente. Se considerato che c'è questa restrizione dello governo, non è che puoi allargarti più di tanto. Non ti puoi unire nemmeno ai tuoi familiari, ai tuoi fratelli, ai tuoi parenti, insomma, in genere. Nulla va. Non è possibile. Numero chiuso. A numero chiuso siamo quest'anno. Nulla va. Ma comunque, che Dio ce la mandi buona, che quella è la cosa più interessante, che finisca quanto prima questa storia. Speriamo che questo vaccino che hanno prodotto che sia veramente efficace, che dia risultati efficienti, ma ho la sensazione che hanno fatto in fretta e furia proprio per fare soldi, non per fare bene alla gente. Papadinà l'hanno fatto, soprattutto le case farmaceutiche che hanno inventato questo farmaco, chissà se è effettivamente buono, se non ci saranno anche effetti collaterali oltretutto, e chi lo sa, vabbè, staremo a vedere, dai. Ma quindi domani mattina non si può uscire, praticamente? Per quanto ne so io no, sono i tre giorni, i 3, 24, 25, 26 e anche 27 mi sembra, non me lo ricordo bene. Comunque tre giorni sicuri, ce ne c'è il coprifuoco, non ci possiamo muovere. Quindi non si può andare, no, perché mi hanno fatto messaggio se domani mattina potevo andare a Sentino, no, assolutamente. Nel modo più assoluto, sì, è 24, 25, 26, 27. E appunto, e poi dal 31 fino al 3 o il 4 di gennaio. Pazienza, ormai abbiamo fatto anche l'abitudine di stare a casa, solo che stare soli, soletti, con la propria famiglia, senza i parenti, insomma, è un pochino triste, però purtroppo la situazione è quella e dobbiamo fare da bravi, e cioè rispettare le regole, tutto lì. Speriamo bene. Luca, è bene che ti intona, guarda t'antenna, vatti a vedere. No, non risponde, sta facendo cosa sicuramente. Capito? Oclà, purtroppo così. Pensiamo che c'è gente che sta veramente male, quelli sì che stanno. Tu immagina in ospedale, proprio di Natale, ti puoi immaginare che razza di situazione e di umore che possono avere, pacca di dai. Vabbè dai. Riprendi. Io confesemo. Andava ti ricordando dopo. Ti aspetta. Di luscio. Va bene. Comunque, non lo so. Vediamo un pochino com'è la situazione, poi al prossimo anno decideranno cosa fare. Ci rinchiusi, non mollarci. Guarda, abbiamo preso l'occasione, perché se avessero chiuso prima subito, cioè intanto non avrebbero dovuto aprire alle vacanze eccetera eccetera in agosto, se avessero chiuso da prima per ancora, non dico molto, per almeno altre 2-3 settimane probabilmente non avremmo avuto questi problemi oggi. Invece no, l'egoismo di farsi le vacanze, di farsi le ferie, questi magnacci bastardi che si sono spostati da un posto all'altro e hanno continuato a contagiare e a alimentare di nuovo la pandemia, non è possibile. Vabbè dai, è inutile intanto stare lì a protestare, ormai l'abbiamo detto e ripetuto più volte questo discorso, per cui è andata così e ora vuoi pazienza, dai, sopportiamo, interessante stare bene, almeno quello. Vabbè, comunque tua moglie già si sta riprendendo adesso, dopo diversi giorni dell'intervento, io non penso che, sì, il dolore ce l'avrà senz'altro ancora, ma sarà sicuramente diminuito di molto, confermi? Sì, è diminuito, però non gli hanno tolto ancora il punto, non hanno tolto niente, stamattina c'è andato a controllo al policlinico, l'ortopedico gli era nuovamente rifasciato e tutto, si ritengono in quattro, mi sembra c'è la visita di nuovo, quindi Natale e Capodanno con lei così, ne vuoi andare? Da nessuna parte, no? Non puoi andare da nessuna parte, anche quello, oltre a quello, chiaramente, oltre alla pandemia c'è anche quello anche da considerare. Con una moglie così cosa puoi fare? Non è che ti puoi spostare anche volendolo fare, dove vai? Capita, io lo so che camminando male, stando seduta, stando a letto sarebbe un pochino meglio, ma se incomincia a spostarsi e a faticare il piede, poi chiaro grido che c'è il dolore. Caspita, dopo un mese che mi avevo fatto la storta ancora risento io, ed era una cosa, non dico di niente, però diciamo che non c'è stato nessun intervento medico, nessun intervento di operazione eccetera, perché avevo solamente strappato i tendini, avevo il piede nero, livido, blu, come te lo vuoi chiamare, tutto niedo, sopra, sotto, dappertutto. E dopo un mese ancora, sì, adesso già sto cominciando a camminare bene, però quando scendo le scale un tantino ancora, un leggero dolorino, ma quando alla sera lo sento, purtroppo è andata così. Mi posso immaginare cosa sta passando tua moglie con l'intervento che ha avuto questo piede, purtroppo è così. I mali ce li manda la natura, ce li manda il destino più che altro, per cui pazienza, e meno male che ci sono le cure, e quello è interessante, molto interessante. Noi, tu pensa a quei medici, grazie a che peculare la gente, sono molti loro, sono molti di pandemia, insomma i 250 dottori sono molti, non uno, senza considerare poi tutti gli infermieri, tutte le persone della sanità che hanno anche loro perso la vita proprio per andare a curare chi è stato contagiato, purtroppo è così qua. Bah, vabbè, che sia l'ultima volta che si possa soffrire a questo modo, speriamo bene. Sì, vabbè, ancora non è finita, quindi bisogna vedere cosa succede. Ancora non è finita. Dammi un minuto che vado a vedere se vuole qualcosa mia moglie. Ok, vai qua, che è più importante la famiglia del baracchino, e allo grido. Ehi, qua sono. Mi sa che piove, la china. Cos'è che ti è successo? Cos'è che ti è successo? Cosa stavi intonacando un'antenna? No, stavo dando il trasparente. Ci ho mandato le foto. Ti ho mandato il cellulare. Ah, ce l'ho giù in tavernetta il cellulare. E adesso non ci scendo giù perché stanno facendo pulizie. Ma ha puttato sopra la casa mi figura e mia moglie, vabbè, comunque non ci scendo giù, anche perché c'era la aspirapolvere poc'anzi che pariva un aereo, Maria, capita quanto rumore fa con la aspirapolvere che ha, o qualche cuscinetto che si sta rompendo, boh. Ma che me ne mandate la foto? Cazzo, te ne ho mandato una ventina a te dell'MC50. Sì, anzi, aspetta, no, quello del gelato non te l'ho mandato, aspetta. Ma infatti, quello te lo mandiamo a vedere come esce, perché anche il mio originale marrone, beige, ma se è uscito bello quello, io lo faccio grigio come il 60. Fallo tricolore, come la bandiera italiana, Luca, fallo tricolore, così almeno, aspetta. Facciamo vedere che siamo italiani. Aspetta che lo sto tenendo in mano lì perché dalla foto, perché c'è il trasparente per non appoggiarlo al piano, capito? Aspetta, te la faccio la luce. Fai, io non c'è fretta. Ho visto intanto il telefono, ce l'ho giù. Devo scendere giù a prenderlo. E va bene, dai, Giulia. E beh, va, tutto a posto? Sta bene, sì? Sì. Mi ha approfittato a sfruttarmi la borocinina. Adesso si alza e curicata ancora. Ehi, meglio che riposi. Quando riposa sta meglio, guarda, così. Perché oltre al dolore poi subentra anche la stanchezza. Ma non stanchezza perché magari si è mossa, no, stanchezza mentale. Per il fatto di sapere che hai questo problema e dunque è chiaro che mentre invece è meglio che riposa. Così sarà più in forma. Vabbè, dai. Io Luca, vado a vedere che sei trasparente. Se vedi quel microfono com'era, non c'è, ho fatto tutto nuovo, ne è uscito bello. Già l'avevo visto io quando l'ha scrostato, se ne ha tolto la vernice vecchia o cosa era, che poi l'aveva fatto nuovo praticamente, già l'ho visto, sì. Già va bene. Ok. Adesso va di nuovo un attimino, così ero il fastidio, dai. Ti attorno subito, sono qua. Ok, d'accordo. Sì! Conto con lo squarterato! Vendo, compro scambio di coppie. E cosa vuoi vendere e scambiare? Cosa vuoi scambiare? Adesso lo metto in vendita, appena lo assemblo. Lo metto in vendita, cappa. E cos'è questo affare che mi hai mandato? No, siamo una pila, sembra. Certo, giù l'MC50 e la pila, l'ho gelato dello microfono, isso, È un roccio di cobolo. È la base dove? E non mi vedi le foto. Boh, tu stai perdendo un video, dello gelato. Su gelato meravigliato. Beh, ti sto guardando, aspetta che sto guardando. Allora, ecco. Non me lo potevi dire che dovevo scorreggiare le immagini. Io avevo visto un roccio di cobo bianco, abbiamo visto. Forse hai visto perché c'era il nastro che ho tolto adesso, il nastro di carta per isolare il pezzo cromato. Sì, e beh, appunto, non si vedeva altro. Non si vedeva altro. Anda bene. Ma me l'avevi già mandato la foto la volta scorsa del coso, delle questo 50, delle MC50. Ma la vernice l'avevi tolta tutta? Sì. Sverniciatore, è tolto tutto. Ho capito. Poi come l'hai fatta? Struzzo l'hai fatta? Con la bomboletta? Bomboletta effetto sabbia. Infatti. Effetto sabbia, effetto a buccia d'arancia, come lo vuoi chiamare, una cosa del genere. Chiara. Adesso lo assemblo, li rimetto ai tasti, visti gli hai? Color, li ho fatti cubicati con l'effetto alluminio spazzolato. Ho capito. Sì, no, è uscito bene. È uscito bene. Andava. Vabbè. Almeno ti sei appintato. Era messo male, ma troppo messo male. Così che ho detto, lo restauro e me lo vendo, e tanto già me ne posso. Vabbè, se non sei interessato, fai la venditiva, già te ne vai. Hai ragione. Avevi già provato, funziona bene, eccetera, eccetera. Sì, mi avevano dato anche 3 gelati in tutto. Che gli altri ci sono i fili scollegati. Però li spedisco così, che se lo compareggia, ve li mando così, sì. Capito? Ok. Andave, beh. ok. E vabbè, dai, comunque. E poi, il cantiere cos'è adesso? Cantiere, niente di che. Nulla di che. Devo fare un paio di antenne, però non ne bozzava. A parte è un casino adesso perché hanno bloccato le spedizioni in un sacco di città. Più di 10, ed è un casino. Dovevo spedire avanti ieri. Invece ho guardato su internet e a Roma è tutto bloccato. Ok. Ma tu cosa gli spedisci? Anche la canna da pesca lì? O solo la parte elettrica lì spedisci? Cosa fai? Tira fuori, sì. Anche la canna da pesca, certo. Ok, ho capito. Beh, certo, va bene così. Va bene. Le richieste ce ne sono, sì? Devo fare altre due. Solo che è un casino per la spedizione, perché sono bloccate molte città, sia di ritiri che di spedizioni. Lo so, adesso con questo fatto della pandemia non si può uscire. Praticamente tra una cosa e l'altra ci sono 10 giorni di blocco totale, per cui non... Cosa vuoi fare? Adesso bisogna lasciare passare questi giorni e dopo magari si sblocca tutto di nuovo e si riparte. Sperando bene, che cosa vuoi fare? D'altronde è così. È un casotto, e quando iniziano a bloccare le spedizioni, poi vuol dire che devono fare il blocco totale, lockdown. Certo. Ascolta, quando spedisci la parte elettrica, cosa gli dai? Già la bobina già avvolta su quello gli dai tutto, no? Oppure, escluso la canna da pesca per chi la chiede, o anche quello gli dai, gliela fai in aria la bobina e gliela dai così, senza essere avvolta nel coso che sai, che fai tu. No, l'antenna la faccio finita oggi, come fai a mandarla così? L'antenna deve essere finita, la parte elettrica, in modo che lui poi se l'attacca un bastone di scopa, se l'attacca a una canna da pesca, capito? Ma l'antenna deve essere finita. Certo, no, perché si può fare la bobina sempre, poi con un capo che scende non fai altro che collegare praticamente una bobina esterna, no? Può fare va bene lo stesso. Non è quello il problema, cioè non è detto che uno deve per forza farla avvolta al tubo lancione, eccetera. Sì, è meglio, indubbiamente è meglio, non ci sono dubbi, ma con la bobina si può fare anche in aria, senza il tubo, diciamo, dai. Si può fare pure senza il tubo, basta bucarlo dopo il tubo, ma il tubo serve, capito, per forza ci vuole. Per fare la taratura e tutto quanto, perché sennò come gli ha detto, lo scotch è una strada. Certo, è ovvio, no? Tutte queste cose sì, però ce n'è gente che la fa anche così, senza bisogno, praticamente fuori dal tubo, esternamente alla canna, e va bene, meglio così, dai. Mi fa piacere che ci siano ancora persone che apprezzano la 27, così almeno continuiamo a portarla avanti, perché sennò oi, vabbè, solo gli assassini siamo un po' drumidi, un po' troppo, anzi, la gente non ne vuol più sapere, ci rintaccio, e pensare che è un bello svago la sera, ci saremmo riuniti tutti quanti a scambiare quattro chiacchiere, invece tutte le volte parliamo sempre in due, in tre, in quattro, esageratamente, ma comunque... Cosa vuoi, ma purtroppo la gente la pensa in quel modo. Ma qua ne ho fatto tre fosse, mi pare. Queste altre stanno andando fuori, capito? Tutte fuori sto spedendo oggi. Certo. Sì, indubbiamente l'Italia già è grande, per cui le richieste ci devono essere senz'altro. C'è sempre gente che è attaccata in maniera morbosa, come lo siamo noi attaccati al baracchino. Non è detto che tutti smettono, anzi, speriamo che se ne prenda proprio come una volta, ma sarà molto, ma molto difficile. Il fatto che si è voluto, hanno messo anche questi accidenti di Cibitol, che adesso la gente è convinta che di sostituire il baracchino con questo Cibitol. Poi tante è male da capo la gente alle volte, senza rendersene conto, però che cosa ci vuoi fare? Ognuno ha le proprie idee e via. Ma allora aspetta, stavo pensando, qua ne ho fatto due per Antonello di Porto Torres, una a Manuele Ginco, una a Torre Squalo e una a Antonello Pomponio per la sorella. Sì. Oh, qua non ne ho fatto altre. Registrato il break. Vabbè, comunque va bene così, va bene così, non c'è problema. Speriamo che continui alla grande, anzi che le richieste aumentino, speriamo bene. Avanti il break. Ciao, Lupo Grigio, sì, ti sento. Santiago 5 quasi. La radio, vabbè, è sempre l'assoluta. La radio è sempre l'assoluta. Come avrei sentito c'è Luca anche in compagnia mia e poi ci dovrebbe essere Claudio in attesa in stand by. Vabbè, davanti, riprende ancora e fai girare, vai Lupo Grigio. C'è Luca che ti mando avanti adesso. Io ricambio gli auguri di buon anno, di buon Natale, di buon anno. Avremo modo di sentirci magari anche domani, dopodomani, speriamo bene. Ti mando avanti Luca a flippare, avanti Luca per Nicola Lupo Grigio. Luca in questo momento ha staccato, sta lavorando Nico, per cui devi attendere un attimino, ma già rientra fra un po', dai. Riprendi. Ok. Non so se hai passato il microfono perché non sei sparito, non ti sentivo più. Guarda, perché non ti prepari un'antenna da Luca, così te la metti sul tetto, che è un'antenna che va benissimo, e allo stesso tempo non ti crea nessun problema, perché è uno stilo e basta, senza radiale, senza niente. E va alla grande, va veramente bene. Quello dovresti farti fare da Luca, o Lupo Grigio. Spendi la metà di quello che costa, per cui, di quello che costa intendo l'originale, per cui saresti a posto veramente allora con l'antenna. Non più Santiago 5 con QRM, ma arriveresti molto ma molto forte qua, come tutti del resto. Vabbè, dai, vediamo se è rientrato Luca, no, non è rientrato, dai. Invito Lupo Grigio, dovresti pensare all'antenna, perché quando c'è QRM è un po' difficoltoso ascoltare, perché arrivi bassino del radio anche, per cui va bene così. Avanti Lupo Grigio. Sarebbe l'ideale fare l'impianto di discesa così sotto traccia, sì. E allora quando fanno quel lavoro chiedi un tubo in più, così magari affiancato a quello della TV, e così ce l'hai personale questo tubo e puoi infilare il capo eccetera eccetera per farlo scendere. Sì, il capo è sottile, va bene, anche l'H155 è sottile come l'RG58, va benissimo, poche perdite, è un capo molto molto performante, per cui va bene. Sì, costerà qualche centesimo in più dell'RG58, però hai anche un'utilità superiore. E allora dovresti pensare a quello. Se fate quel lavoro lì nel palazzo, pensa a farti mettere un tubo separato, perché non lo so se è possibile farlo scendere dove c'è già il cavo TV, anche perché il cavo TV è poi condominiale, a meno che tu non ce l'hai indipendente, per te, allora il discorso è diverso, allora sì che puoi usufruire di quella discesa lì e basta. Non lo so, vedi un po' tu, Nico. Sì, ma già dal 2020, ormai è già dal 2020, non si deve fare più niente. Da quando è uscito il nuovo decreto ministeriale, dunque no, ormai non si deve fare più niente, nemmeno la domandina, nulla di nulla, non si deve pagare più niente, c'è la libertà di poter usare il baracchino tranquillamente, senza nessuna richiesta di concessione, eccetera, nulla di nulla. Tu piazza la stazione e sei a posto, senza fare nessuna domanda. Non è necessario, guarda. Il decreto parlava abbastanza chiaramente che non c'è bisogno più di fare niente. Niente di niente, nessuna richiesta e nessun versamento in denari. Per cui va bene così. Solo radio personale, antenna personale, microfono personale, tutto tuo personale, senza nessuna richiesta per niente, ok? Mi senti Giulio con il polo? Certo che ti sento, ci sei abbassato anche il segnale, in questo momento ci sei abbassato anche il segnale, Nico, e non sto facendo fatica ad ascoltarti. Sì, ma è così. Di Paolo ha messo, Claudio? Sì, ti sento bene, Claudio. Sì, sono la polarizzazione orizzontale, no, ho messo, c'ho l'altra radio accesa, no? Ho messo nel 10 e l'altra, la gemella praticamente, la sempre la chiude. Non so come sta andando di radio, ma comunque penso bene, sì, col dipolo dei 10 metri, 10, 15, 20, 40 e 80, col dipolo a 5 bande sto andando. Mi senti bene? Mi sento benissimo, di radio modulato arrivi Santiago 9, arrivi, per cui la radio è sempre quella, no? Non cambia niente, va perfettamente bene, molto bene, non so se tu riesci a ascoltare bene a Lupo Grigio, perché io lo sto perdendo, perché adesso si è abbassato anche il segnale e la radio si è abbassata ulteriormente, non lo so per quale motivo, forse per il QRM, non lo so. Lo mando avanti il pubblico. Guarda, se ricevo meglio col dipolo la polarizzazione orizzontale che con la verticale, ecco, quindi no, non ci stanno problemi, arrivi. Ecco, per quello che allora ti ascolto meglio col dipolo che con, praticamente c'ha l'antenna della macchina, Giulia, anziché essere messa con la base magnetica in verticale e a polarizzazione orizzontale, capito, di fianco alla caldaia, alla staccata, capito, questo lo ascolto meglio. Sì, beh certo, sì, ma probabilmente è per quello, visto che tutti e due state andando in orizzontale, certo, però io che ricevo in verticale faccio un po' di fatica, perché poc'anzi si era abbassato addirittura, adesso ho ripreso di nuovo, Santiago sì quasi, però poc'anzi si era abbassato a Santiago 4 e anche la radio si era abbassata ulteriormente. Però adesso ho visto che ha ripreso il segnale di prima e dunque faccio meno fatica ad ascoltarlo. Avanti Nicola. Ok, speriamo che entri anche qualche un altro, magari che tiri fuori i baracchini, perché tanto c'è tanta gente che ce l'ha il baracchino, solo che ha perso la volontà di modulare, ecco qual è il problema. Il problema è sempre quello. Uno magari ce l'ha e lo tiene nel cassetto, che so io, conservato dentro uno scatolone. Speriamo che si riprenda un po' di attività. Non dico esageratamente, però ci farebbe piacere che qualcuno entrasse, almeno le persone già note, già sentite altre volte, senza quello che succede, il casino che era successo la volta scorsa, però speriamo bene, cosa vuoi che ti dica? Staremo a vedere, noi siamo qua in attesa, se qualcuno accende, entra, noi sentiamo e rispondiamo volentieri, per cui vediamo un po' cosa fanno. Avanti Cla. Cappa, va bene. Io non vedo male l'ora, c'ho male dizione, non riesco a parlare. La mia voce se ne sta andando di nuovo, ma vabbè. No, ti ascolto bene Nicola, ti ascolto benissimo, ripeto, ti ascolto meglio con dipolo che con la verticale, evidentemente è così, vabbè. E mentre torna tutta la marmaglia che era prima, no, per importanti a fare casino, giuro, buonità. Ma che appassionato la radio, tu, Giulio, tu mi insegni che non è che aspetta il club di diventare radio o per piacere in chiusa a casa diventare radio. Uno se le fa piacere, che è appassionato, entra anche, non dico tutti i giorni, ma si fa sentire durante la settimana, giusto per fare due chiacchiere. Tutto qua. Non sei d'accordo? Perché è registrato il break. Beh certo, non ci sono dubbi, sì, così, però purtroppo sai come succede, no? La gente evidentemente non ha abbastanza passione per poter passare qualche mezz'oretta così insieme agli amici che hanno più assiduità alla frequenza. Cosa vuoi che ti dica? Sarebbe vedere cosa succede. Avanti il break, Gianfranco, buonasera. Sì, come quello passa la parola. Buonasera a tutti. Buonasera a Giulio, buonasera a Claudio. Buonasera anche a Nicola, che sono da tanto non lo sento. Ma purtroppo l'area è talmente basso che non si sente, non capisco perché. Ma glielo stavo dicendo anch'io, perché ti spiego, lui ha una base magnetica che l'ha attaccata alla caldaia, è all'antennino di macchina praticamente, che risulta adesso in orizzontale. Claudio invece sente meglio, perché anche lui sta andando col dipolo in orizzontale al momento, dunque la stessa polarità, la stessa polarizzazione, e sente meglio, a differenza magari tua e anche mia, che io lo sento, sentiamo 5,5-6, e alle volte faccio fatica ad ascoltare tutto quello che dice. Adesso te lo rimando avanti, vediamo un po'. Avanti Nicola per Gianfranco, K. Ma lui ha già detto che trova difficoltà ad ascoltarti, e tu mi stai dicendo addirittura che non lo senti per niente, e stiamo andando di male in peggio. Gianfranco, non ti sente per niente, dice Gianfranco. Ma Nicola, non so cosa dire. Comunque ti mando avanti Claudio, almeno per i saluti. Avanti Claudio. Sì, ciao Gianfranco, buonasera, ben ascoltato. E Nicola, c'è un segnalone con la polarizzazione orizzontale. In verticale mi arriva a 4, in orizzontale mi arriva quasi 8, il doppio. Quindi evidentemente è proprio così come ho detto io. Avanti Gianfranco. Sì, vabbè, anch'io posso andare in orizzontale. Basta che metta con muti l'antenna, però io lo sento quando parla, però è zero, S zero, capito, in mezzo al rumore, quindi è molto basso. Sì, io sto andando, anch'io sto andando molto basso, sono un watt, quindi niente. E Claudio, ti volevo dire una cosa, ma mi sa che se n'è andata con la cosa. Ti volevo chiedere se sentivi un rumore su un canale che è sotto, particolare, un rumore particolare, crea discretamente, però mi sa che se n'è andato, non lo vedo più. E vabbè, pazienza. Se riappare te lo dico. Dimmelo, vediamo un po'. Kappa. Avanti Nicola. Questa antenna devi mettere, questa benedetta antenna, porca miseria, lì stesso dove c'hai quella lì, togli quella, metti un palettino piccolino dove c'è la caldaia, qualcosa, metti una boomerang, che così ti ascoltano tutti. Avanti, riprendi. Sì, puoi fare anche così, beh, come ho fatto io. Io mi caccio il cavo in facciata, io il cavo ce l'ho dentro il pluviale dell'acqua, canalizzato con un corrugato, però c'ho cavo grosso, cavo buono, perché dalle 10:58 se lo mangia subito l'acqua, quindi non so che cavo vuoi mettere, non lo so, l'esperto dei cavi è Giulio. Avanti Giulio, riprendi. Io vi stavo dicendo che lui dice che ha bisogno di un cavo sottile, perché dice che lo faceva passare dentro la tubazione della TV. Non so se lui ce l'ha indipendente la calata dell'impianto TV, o se è solamente un impianto centralizzato del palazzo. E allora gli abbiamo detto l'H155, che ha le stesse dimensioni dell'RG58. L'RG58 io non lo consiglio a nessuno, visto e considerato che è un cavo abbastanza scadente. Per cui, boh, vedrà lui. Comunque, hai sentito anche cosa ha detto Claudio? Se tu hai il canale di Gronda con il tubo fluviale o Nicola, lo puoi far entrare lì. Poi se ti passa a fianco alla tua finestra, ad esempio, basta un forellino, fai uscire il cavo fuori e te lo porti dentro casa e in facciata non vede niente. Però, come hai sentito, Claudio gli ha messo anche il culo gatto per riservarlo un pochino, perché lì nel canale Gronda scende l'acqua, tu mi dirai, ma all'esterno è uguale, l'acqua la prenderebbe lo stesso, certo che la prende lo stesso, però quando c'è un pochino di riservatezza per il cavo stesso già le fa bene, non è che le fa male. Va bene, dai, avanti Gianfra. Sì. Adesso l'ho sentito anch'io, sicuramente mi sentite molto molto più basso, però adesso l'ho sentito anch'io abbastanza chiaro a Nicola, solo che non ho capito come c'è finito in qualità orizzontale, chissà che ambaradam c'è di lì sopra questa caldaia, no? Ci sarà il tubo probabilmente del maiolo che le sta variando tutto il coso di radiazione. Claudio, non lo sento più io, Sì. Non lo senti a Gianfranco? 55 è però quello, no, il Belden, così almeno c'è una cosa. Ecco! Ha cambiato antenna, polarizzazione orizzontale non ci arriva a te. Un attimo, stanno modulando. Gianfra, Giulio non ti sente più, rimetti come di prima, perché da Giulio non arrivi a polarizzazione orizzontale. C'è stato anche un break, riprendi Gianfra. Sì, ho commutato di nuovo l'antenna. E vabbè, Giulio c'è sempre il problema di Monteoro. Adesso mi dovrebbe riascoltare. Varia parecchio, da dritto a torto, diciamo così. C'era un break, avanti, vediamo. Avanti break. Buonasera, stazione di Lacchi che vi cordializza. Ciao Fortuna, io sono con Del Polo, ti ascolto basso basso, dove sei? Coordinate qua, Bricomen. Dove? Bricomen. Ho capito. Vabbè, devo cambiare antenna per sentirti bene a te. Avanti Giulio, tu sicuramente lo senti meglio. Sì, lo sento bene. Ciao Fortunato, Giulio da questa parte, in compagnia di Gianfranco, e poi c'è anche Lupo Grigio e più Claudio, come appunto ti ha passato il mic. Avanti Fortunato. Ciao Giulio, buonasera. Sì, Gianfranco lo sento basso, poi non so da dove sta trasmettendo. Adesso le passiamo l'ambasciata. Gianfranco, Fortunato ha detto che ti sente basso e non sa da dove stai trasmettendo. Puoi rispondere tu? Sì, confermo. Adesso sicuramente mi senti, ne approfitto dato che da Bricomen praticamente a 1,5 km da me in linea d'aria, deve essere evidentemente vicino al caseggiato da qualche parte. Volevo sapere se c'era molta gente da Bricomen. Hai sentito qualcuno cosa ha detto Gianfranco? Se c'era molta gente da Bricomen, sono passato a operazione verticale di nuovo, Hai sentito quello che ha detto? Nella rotatoria che sono mancanti. Allora ti posso confermare che c'è un tubo enorme e c'è anche la fila per entrare nella zona. Ho copiato benissimo, anche se il segnale è enormemente basso rispetto alle aspettative. Vabbè, come l'ho detto, quindi è meglio rimanere in casa, mi sa. Tutti da Bricomen. Giulio, tu non ci vai da Bricomen? No, ci sono andato 3-4 giorni fa, ho preso del materiale che mi serviva qua per casa, per cui adesso ci dovrò ritornare, ma adesso se ne parla dopo le feste, intanto già abbiamo il coprifuoco. Per cui non ci devo andare, non ci vado anzi. Va bene, dai, ti mando avanti Lupo Grigio, vediamo se lo senti, non lo so se lo senti o Fortunato. Avanti Lupo Grigio per Fortunato, Lacchi. Allora riprendo io e incomincio a salutarti. Ciao Fortunato, grazie per essere entrato a salutarci e anche a farci gli auguri, e io ricambio di vero cuore. Salutoni ancora a te famiglia. Ciao lo Fortunato, ti mando Claudio per i saluti e per gli auguri. Avanti Claudio. Fortunato, prendo di nuovo io. Claudio ogni tanto in tanto si deve sentare per questioni familiari, per cui avrà senz'altro ascoltato. In ogni caso ti faccio io i saluti da parte sua.